con Elisabetta Sgarbi, regista del film I nomi del signor Sulcic, al cinema da giovedì 7 febbraio 2019. Elisabetta, ben trovata. Ciao, buongiorno. Ci racconti brevemente la trama? I nomi del signor Sulcic, che viene distribuito dall'Istituto Luce in Sale ed è prodotto da Rai Cinema e da Betty Ronca, è un film sull'identità, anzi sulle identità. In un momento storico in cui si parla molto di identità e ognuno si irrigidisce sul tema, il film vuole suggerire che nessuno può essere certo della propria identità, nel senso che non possiamo dire che ciò che ci viene raccontato è esattamente quello che noi siamo, cioè noi ripetiamo storie che ci vengono raccontate, ma non c'è nulla di incontrovertibile. Infatti il protagonista del film, che si chiama Gabriele, è un signore che vive la sua vita in una valle remota del Po e viene raggiunto da una donna slovena che si porta una verità inaudita che riguarda proprio la sua origine, e quella origine che lui non ha mai messo in discussione. Quindi i nomi del signor Sulcic indica un fatto, che un solo uomo ha molti nomi e dovrà scoprire perché. Qual è l'origine del film? E l'origine del film è una sceneggiatura che abbiamo scritto con Eugenio Lio dopo tanti documentari sull'area del nord-est, Trieste e la Slovenia. Ed è un film dove sono presenti tutte le passioni che determinano la mia vita e il mio cinema. Quindi c'è il Delta del Po, che era tanto caro a mio padre, come si è letto nei suoi libri, e anche a Toni Cibotto, grande scrittore polesano, cui devo molto. C'è Ferrara, che è la mia città, e c'è una parte del film che si svolge nelle case di mia madre, dove mia madre è cresciuta. C'è Trieste, che è una città che è anche il simbolo di una varietà di identità culturali. E poi ci sono tanti elementi autobiografici che riguardano e si confondono con la mia attività principale di editore, e c'è la storia di due fratelli che non sanno di esserlo, e in questo senso, cioè, la storia diventa appassionante e la presenza di alcune personalità abbastanza consuete al cinema di narrazione, come Pressburger, e il film è dedicato, e Claudio Magris, danno il senso a questa vita. I nomi, cioè i segreti, i nomi, spesso nascondono verità multiple, e bisogna capire che cosa sono i nomi, questo è il senso della storia. Dagli attori vi sono Erlisca, Alberto Maria Merli, Graziosi, Elena Radonici, Repitosa, Lucia Pocai e il suo marito, che aveva vinto al Festival di Roma come protagonista di un film intitolato Tir. Quindi è un film variegato che sono contenta di avere finalmente compiuto. Ci ho lavorato molto tra lavoro editoriale e presente sul set, e finalmente le prime reazioni ho visto sono state molto positive a Trieste, a Gorizia, a Bologna, e poi vedremo nelle altre città. Ecco, mi hai detto che è stato un processo piuttosto lungo. Ecco, come hai proceduto nella lavorazione? Abbiamo scritto la sceneggiatura, l'abbiamo rivista, poiché molti sono i riferimenti storici e letterari, insieme a Claudio Magris, e poi sottoposta a Rai Cinema. Abbiamo cominciato a girare nelle zone a me care, cioè il Delta del Po, il Po di Maistra. C'è un protagonista, il fratello Strepitoso, che è un non attore, con il quale avevo già in precedenza lavorato, che dà una prova, secondo me, di grande aura cinematografica. E con molte interruzioni ho lavorato al film, che ha avuto una gestazione di più di 3 anni. Ed è un film curatissimo dal punto di vista della fotografia. Lavoro da anni con Andrés Arce Maldonado, le musiche sono state fatte con la collaborazione di Franco Battiato, delle musiche originali di Cacciapaglia, è un testo che credo insomma nasconda molti risvolti psicologici che ci riguardano tutti molto da vicino. Il cuore di un rapporto tra un fratello e una sorella è l'inizio di una storia che diventa una sorta di thriller esistenziale. A poco alcuni documenti porteranno a entrare e invischiarsi in una vicenda che alla fine, come in una sorta di catarsi finale, viene risolta e raccontata da questa grande attrice che è Lucca Pocai. Che tipo di distribuzione sarà? La distribuzione sarà Trieste, Gorizia, Bologna al Cinema Lumière, Trieste al Cinema Ariston, e andrà poi a Roma e starà per una settimana in 3 cinema, sarà il 7 di febbraio al Farnese, e poi al Cinema Quattro Fontane, al Cinema Aquila, poi seguiremo con Milano, dove ci sarà una lunga programmazione al Cinema Mexico, poi a Mantova, poi a Genova, poi a Firenze, insomma andrà avanti fino alla fine di febbraio e inizio marzo, insomma. Poi credo anche lateralmente ad Ascoli Piceno è arrivata una richiesta. Bene, e allora ricordiamo il film I nomi del signor Sulcic, in sala da giovedì 7 febbraio 2019. Un saluto e un ringraziamento alla regista Elisabetta Sgarbi. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. A presto, grazie mille.